America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Vladimir Putin, devo dire, il presidente russo non abbassa i toni della polemica con l'Occidente e con gli Stati Uniti. Anzi, direi che li alza, perché in una conversazione che ha avuto ieri con la Merkel ha chiesto che, pensate, che le truppe ucraine che stanno cercando di riconquistare certe postazioni che hanno perduto, che sono cadute nelle mani dei ribelli, ribelli che tra l'altro tengono come ostaggi degli osservatori stranieri, tra cui degli osservatori tedeschi, quindi che operano nella più totale illegalità, ecco, ha chiesto che le truppe ucraine che stanno cercando di riconquistare le loro posizioni si ritirino. E quindi si ritirino per lasciare completamente mano libera ai ribelli ispirati dalla Russia. Non si sa se anche da un punto di vista operativo, molti dicono che lo siano, altri dicono che invece abbiano soprattutto un supporto morale. Questa è la tesi di Mosca. Ecco, cos'è che vuole ottenere Putin? Secondo molti vuole destabilizzare la situazione per evitare che le elezioni del 25 maggio abbiano quella credibilità che invece l'Occidente, gli Stati Uniti e l'Europa vorrebbero che ci fosse. Qual è lo sviluppo più naturale di questa situazione? Che l'Europa e gli Stati Uniti finiranno per imporre altre sanzioni. Finora abbiamo visto che le sanzioni commerciali, che pure hanno indebolito l'economia russa, non hanno in alcun modo fatto impressione su Mosca e su Putin in particolare. Quindi la situazione commerciale Russia-Europa, soprattutto Russia-Europa, perché poi gli Stati Uniti sono molto meno coinvolti, si irrigidisce. Abbiamo un'altra situazione commerciale che doveva evolversi e che invece si è un po' fermata. Barack Obama è appena rientrato qualche giorno fa dal viaggio asiatico, voleva firmare una fase preliminare importante dell'accordo per la creazione di un'area di libero scambio commerciale con il Pacifico. A Tokyo non c'è riuscito, e in Corea uguale. Resta aperto ovviamente il negoziato con l'Europa, e anche lì abbiamo avuto delle battute d'arresto. A un certo punto un incontro fu cancellato, pensate, proprio per la chiusura del governo americano si sono accumulati dei ritardi. La Repubblica Italiana, la presidenza del Consiglio italiano, avrà la presidenza dell'Unione Europea fra poco, all'inizio dell'estate. Abbiamo avuto una visita del viceministro Calenda, che ha incontrato Michael Froman, e abbiamo anche a Washington Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria Europea, che è qui con noi ai microfoni di America 24. Buongiorno Marcegaglia. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, dunque, il quadro commerciale è un po' instabile, perché abbiamo visto in Russia, ci sarà un'escalation che bloccherà, come dire, alcuni importanti svincoli commerciali con l'Europa. Col Giappone le cose così così, e con l'Europa lei ha avuto degli incontri importanti, se non sbaglio ha visto anche Michael Froman, il capo negoziatore americano. Sì, proprio adesso abbiamo visto Michael Froman, abbiamo visto i rappresentanti del commercio, abbiamo visto anche alcuni uomini e donne del congresso, abbiamo fatto insomma una visita ampia. Noi siamo qui con 30 imprenditori e rappresentanti di associazioni imprenditoriali di tutta Europa, e in tutti gli incontri noi abbiamo detto una cosa molto chiara, cioè abbiamo detto: il momento, anche proprio per quello che lei stava dicendo prima, cioè dal punto di vista anche politico, è tale che è assolutamente necessario, ed è questo che noi abbiamo chiesto all'amministrazione Obama, è fondamentale che l'amministrazione Obama metta una totale, assoluta priorità a fare dei passi concreti avanti su questo accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Ecco, ho sentito, insomma, mi è sembrato di capire che da parte europea, da parte dell'organizzazione che lei guida, ci sono state così qualche critica velata, come se gli Stati Uniti rallentano, però gli Stati Uniti dicono che è l'Europa che rallenta, perché la Francia per esempio resiste a certe liberalizzazioni delle proprietà intellettuali. Insomma, c'è qualcuno che è più colpevole di altri? Dove siamo da un punto di vista tecnico in questo negoziato? Ma guardi, in realtà siamo appena entrati nel vivo, quindi siamo all'inizio. C'è un lavoro in corso significativo. La nostra impressione è che l'amministrazione americana, come ho detto prima, dia maggiore priorità all'accordo col Pacifico, e quindi dal nostro punto di vista le offerte che fino ad oggi l'America ha fatto, per esempio sulle tariffe, è insufficiente. Quindi la nostra impressione è che ci sia una minore attenzione da parte dell'amministrazione americana. Ovviamente anche l'Europa deve fare di più nei negoziati, poi ognuno non deve stare sulla propria posizione, deve fare un passo in avanti. Quindi noi pensiamo davvero che sia il momento di non rimanere sulle posizioni un po' precostituite, ma di fare progressi reali su questo accordo molto importante. Ecco, un pronostico: prima l'obiettivo ambizioso era di chiudere entro la fine dell'anno, sì o no? No, credo che questo non sia possibile, anche per la complessità dell'accordo, però noi ci aspettiamo che da qui alla fine dell'anno si facciano passi avanti seri sulla trattativa sulle tariffe, almeno sui servizi, quello che loro chiamano la cooperazione regolatoria, perché poi l'aspetto più importante in questo trattato non sono tanto le tariffe e i dazi, che sono bassi, ma è proprio questa differenza di standard tecnici, di regolamenti che ci sono per poter vendere un prodotto in Europa o negli Stati Uniti. Ci aspettiamo su questo alcuni passi in avanti. Ecco, Europa, Stati Uniti, c'è un po' di sospetto che soprattutto le aziende europee, il mondo imprenditoriale europeo, la Confindustria europea che lei guida, o comunque i membri di questa organizzazione, resistano all'idea di nuove sanzioni nei confronti della Russia. C'è stato un articolo molto aggressivo del New York Times che ha così dato alcune rivelazioni secondo cui le aziende europee frenano molto, temono di soffrire da queste sanzioni, soffrono sicuramente più delle aziende americane. Ecco, qual è la sua posizione su questo? È vero che le aziende europee sono preoccupate dall'ipotesi di sanzioni economiche, però la nostra scelta è quella di dire noi staremo in linea con quello che deciderà la Commissione europea. Ecco, Paolo Scarone, amministratore uscente dell'ENI, aveva fatto qualche dichiarazione proprio al New York Times l'altro giorno dicendo cose simili, cioè che l'Ucraina ha un ruolo importante e dunque anche l'ENI come azienda si adeguerà a quello che sarà deciso dal punto di vista politico. Lei fra poco prenderà un incarico importante, le facciamo anche molti auguri per questo nuovo incarico, lei si identifica con queste posizioni dell'amministratore uscente? Diciamo che, come dicevo, io mi identifico con le posizioni che abbiamo deciso come presidente, diciamo, di Business Euro, che poi sono le stesse che ha detto appunto l'amministratore delegato uscente. Quindi sì, cioè noi staremo con le decisioni che prenderà la Commissione europea. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di commercio e transazioni commerciali. È stato fatto proprio ieri un annuncio di un importante sviluppo commerciale, tra virgolette, e cioè la casa d'aste Sotheby's metterà in vendita il testo autografo originale scritto da Bob Dylan per la canzone Like a Rolling Stones. Stima tra 1 milione e, tenetevi forte, 2 milioni di dollari. Godiamoci dunque questa preziosissima canzone Bob Dylan, Like a Rolling Stone. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.